Determinato dai limiti dell'inconcreto, rinnego il mio ego, torturerò tonitamente meditando me, invincibile disprezzo di me, ora ho paura di me, perché non rido con me, ora ho paura di me, perché non rido con me, ora ho paura di me, perché non rido con me, forme esteriori d'onore, insulsi ed altisonanti, forme interiori d'onore, delusioni discordanti, insulsi corpi vuoti, mente assenti, sinapsi spesso vecchie, spesso lente, nell'idiozia cerco la verità, le tue verità, un bo che chiede ma, un bo che chiede ma, se mi rispetto ma, non mi rispetto ma, io malattie, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, essere troppo coscienti è una malattia, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, ironio malattie, è una malattia, ironio malattia, ironio malattia, essere troppo cosciente è una malattia, ironio malattia, ironio malattia.